le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Modifiche le dei creditori, ma la Germania frena, bisogna aspettare il referendum. Bene le borse, Milano guadagna oltre il 2%. Arrestato il presunto autore dello stupro di una ragazza di 16 anni a Roma. Si tratta di un militare della Marina, l'ha attirata fingendo di essere un poliziotto. Due operazioni antiterrorismo, arrestate 10 persone, di cui alcune pronte a partire per la Siria, in manette anche due magrebini che preparavano attentati in Italia. Le famiglie italiane tornano a risparmiare, dice l'Istat, deficit del primo trimestre ai livelli più bassi dal 2007. Fincantieri, dopo il sequestro dell'area che ha fermato lo stabilimento, convocata una riunione al Ministero, si ipotizzano provvedimenti. Attacco coordinato all'esercito egiziano sul Sinai, il numero delle vittime è incerto, ma sarebbero stati colpiti almeno 5 checkpoint. La battaglia prosegue. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Anche oggi, come tutta la settimana, in diretta da Expo Milano, in diretta dal padiglione Cibus Italia, il padiglione di Federalimentare. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci. Durante la diretta il numero di sms, 349-238-6666, oppure c'è la nostra pagina sul sito internet di Radio 24, www.radio24.it. In apertura, naturalmente, parliamo della Grecia e di trattative che tornano ad aprirsi, a farsi più intense, con una lettera inviata dal premier greco Tsipras ai creditori e alle autorità europee, mentre la Germania però sembra resta su una posizione piuttosto dura. Facciamo il punto con Vittorio Daroldi, inviato ad Atene del Sole 24 Ore. Vittorio, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Guarda, qui la situazione è complicata perché sono davanti a una fila di persone che sta cercando di ritirare i suoi 60 euro di limite al bancomat giornalieri, ma non ci sono più monete da 20 euro e quindi adesso chiedono 50, stanno tutti facendo 50 rinunciando ai 10 euro di cui avrebbero diritto. La situazione quindi è abbastanza complicata, si parla di un discorso in televisione nei prossime ore di primo ministro Alexis Tsipras, che dovrebbe appunto dare una risposta a quello che è già stato fatto in questi giorni e all'ultima lettera che ha inviato questa notte. Ieri sera c'è stata un'imponente manifestazione in piazza Sintagma del fronte del sì, 20.000 persone, un fronte del sì che è molto frastagliato, non ci sono i partiti di fronte in prima posizione, ma i leader dei sindaci, il sindaco soprattutto di Salonicco, che è un po' una figura abbastanza nuova nella politica diciamo così nazionale, Yannis Butaris, che diventa un po' il leader di questo fronte del sì, che chiede all'Europa quindi una minore austerity ma di restare nell'euro e in Europa. Ti ringrazio, grazie a Vittorio Darold per questi aggiornamenti. E sulla notizia arrivata a proposito della lettera di Tsipras si sono mossi i mercati. Nel frattempo non sembrano tener conto, almeno non grandemente, delle parole arrivate dal ministro tedesco Schäuble, che ha ribadito la stessa posizione espressa ieri da Angela Merkel, ossia che bisogna comunque aspettare il referendum di domenica in Grecia. Mercati che comunque si sono mossi e restano positivi, Deborah Rosciani. È vero, molto positivi, abbiamo notato questa fiammata proprio pochi minuti dopo le prime indicazioni di queste dichiarazioni di Tsipras, che aveva detto siamo pronti alla resa su tutte le condizioni chieste da Bruxelles. Per la verità, anche dopo la notizia, l'ufficializzazione di ieri sera del mancato rimborso al Fondo Monetario Internazionale del 1.600.000.000 di euro come rata che Atene deve appunto al fondo, questa mattina i segnali si pensava non potessero essere tanto positivi per la borsa, invece i mercati sono partiti benino, con rialzi di circa lo 0,8% su tutti i fronti, e poi dalle 11.30 sono partiti i listini del vecchio continente letteralmente a razzo. In questo momento Milano è la migliore d'Europa, sta guadagnando il 2,8%, Parigi più 2,55%, Francoforte guadagna un po' meno, abbiamo lo spread anche qua, circa 2 punti di rialzo per il listino tedesco. Anche sul mercato obbligazionario ovviamente queste notizie si fanno sentire, con lo spread che è sceso in maniera molto significativa. quello fra Italia e Germania è a 144 punti base. Ricordiamo che due giorni fa ha toccato e superato i 190, per cui a quanto pare al momento il mercato ovviamente è molto contento di queste novità che stanno arrivando. Segnalo che tra i rialzi di Piazza Affari crescono naturalmente tutti i titoli, non c'è nessun titolo negativo. Segnalo oggi il caso Monte dei Paschi solo perché c'è, con questo progresso del 3,78%, la novità che il Tesoro entra ufficialmente nel capitale di Rocca Salimbeni con il 4% come praticamente frutto degli interessi maturati sulle Monti Bond. Per adesso, direi, Simone, è tutto. E grazie Deborah Rosciani, torneremo ad aggiornarvi sui mercati alle 13.30. Intanto il Presidente del Consiglio Renzi, che ieri ha parlato al telefono con Alexis Tsipras, oggi incontra Angela Merkel a Berlino per un bilaterale previsto da tempo. Nel frattempo ha tenuto una lectio magistralis in un'università nella quale ha parlato anche di Europa e parlato evidentemente anche di Grecia. Ce l'ha l'inviato del Sole 24 Ore, Gerardo Pelosi. Gerardo, buongiorno, cosa ha detto Renzi? Buongiorno a voi. Sì, questa lectio magistralis di Renzi in realtà è stato un volo d'uccello su tutte le principali momenti di crisi e il futuro dell'Unione Europea. Si chiamava appunto Back to the Future, come il famosa saga, il famoso film, e ovviamente anche questione immigrazione, ma soprattutto Grecia. Il referendum di domenica, secondo Renzi, è un referendum tra l'euro e la dracma, non tra la crescita e l'austerity, però pone dei problemi sicuramente per il futuro dell'Unione Europea e soprattutto mette in evidenza quelle che sono state le ricette dell'austerity che sicuramente hanno segnato questi ultimi anni e che però non hanno prodotto i risultati sperati. Per quanto riguarda gli interventi delle istituzioni europee, prendiamo per esempio le ultime dichiarazioni del Presidente della Commissione Juncker, secondo Renzi ha sbagliato a entrare troppo nel merito della questione, di una questione di politica interna greca e quindi favorendo in un certo senso quello che potrebbe essere un esito eventuale a favore di Tsipras. Un lungo ragionamento sul futuro dell'Europa, quello di Renzi, una identità da ritrovare che non è l'opposto di integrazione ma semmai il presupposto di integrazione, un'identità che è stata monopolio in Italia di una cultura di destra ma che non deve essere più così. E facendo una metafora del film, c'è a un certo punto il protagonista che bussa nella testa di un certo McFly e dice: McFly, c'è qualcuno dentro? Ebbene, anche oggi si potrebbe dire così, bussando alle istituzioni europee, bussare e dire: c'è qualcuno dentro. Grazie a Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore a Berlino. Siamo alla cronaca. Un uomo è stato fermato a Roma dalla polizia e indiziato, sospettato di aver violentato lo scorso 29 giugno una ragazza di 15 anni nella zona di Piazzale Clodio. Si tratta di un uomo di 31 anni, originario della provincia di Cosenza, e un militare in forza presso l'arsenale della Marina. La sera di lunedì l'uomo si è finto un poliziotto con il pretesto di infliggere una multa alla ragazza perché l'aveva vista bere della birra assieme a due coetanee. Le aveva intimato di mostrargli i documenti e di seguirlo al commissariato per gli accertamenti. A quel punto però, dopo aver assicurato un palo la sua bicicletta, l'ha condotta a piedi in via Teulada all'altezza di un parcheggio, l'ha trascinata con la forza in un parco nelle vicinanze dove ha abusato di lei. Il fratello dell'uomo è indagato per favoreggiamento. E ora la serie di inchieste contro il terrorismo scattate questa mattina, la più importante a Milano. Per tutti i dettagli ci colleghiamo con Raffaella Calandra. Raffaella, buongiorno. Sì, Simone, hanno nomi italiani e progetti da tagliagole. Noi non siamo musulmani d'Italia, noi siamo qui nel califfato per fare il jihad e uccidere. Parla così la prima militante dello Stato Islamico nata a Torre del Greco e arrivata fino in Siria per tagliare le teste ai miscredenti, per dirla con le sue stesse parole. È nelle trincee dello Stato Islamico Giulia Maria Sergio, la ventenne di cui si erano perse le tracce dallo scorso autunno, dopo che, come ha ricostruito l'indagine della Procura di Milano che ha portato a 10 arresti, si era sposata con un albanese ed era partita per la sua guerra santa, avviando anche un'intensa attività di arruolamento soprattutto verso i familiari. Papà, prendi la mamma per i capelli e portala qui in Siria, gli intima, per superare le ritrosie della madre assunta, perché questo, ripete lei, il cui marito ha partecipato personalmente a delle decapitazioni, è un dovere dei credenti, come ricorda il nuovo capo della Digos di Milano. Sentiamo. La Ishra era un dovere, quindi era un obbligo per tutti coloro che fisicamente sono in grado di fare questo viaggio. È un continuo ripetersi di: guarda, lo dovete fare perché comunque è vostro obbligo non essere un islamico che fa le preghiere quotidiane e basta, ma c'è anche il trasferirsi dall'Italia all'Islamic State. Un'inchiesta, questa, che soprattutto ricostruisce l'organizzazione del califfato fatta sì di attentati che esaltano, come la strage di Charlie Hebdo, ma pure di un welfare state. Vieni qui e provvediamo noi a tutto, dice uno degli emiri intercettato. E per ora dalla questura di Milano è tutto. Grazie Raffaella Calandra per questo aggiornamento. C'è stata un'altra operazione questa mattina contro il terrorismo jihadista a Roma. Amministravano un forum su internet attraverso il quale facevano propaganda dell'ideologia qaidista e proselitismo di aspiranti jihadisti, ma secondo gli inquirenti si proponevano anche di pianificare ed eseguire attentati in Italia e nel Nord Africa i due magrebini arrestati a Roma dai carabinieri della ROS. Si tratta di un cittadino tunisino e di un marocchino. Della cellula faceva parte anche un terzo indagato, già detenuto in Marocco per reati di terrorismo. L'uomo sarebbe stato arrestato prima di compiere due attentati a Rabat contro il Parlamento e contro un festival musicale. Ai tre gli investigatori sono arrivati dopo una lunga attività di monitoraggio del web. Per tutti l'accusa è quella di associazione con finalità di terrorismo internazionale aggravata dalla transnazionalità del reato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto Europol ha lanciato un programma per dichiarare guerra alla propaganda dell'ISIS sul web. Il nostro obiettivo non è solo la rimozione di contenuti dell'ISIS online, ma puntiamo a smantellare la strategia di reclutamenti sul web. Così il direttore di Europol, Rob Wainwright. Di questo torneremo a parlare più avanti nel corso della trasmissione. Così come parleremo di quello che sta succedendo in Egitto in queste ore, sulle alture del Sinai, dove ci sono scontri a fuoco questa mattina proprio tra terroristi dell'ISIS che hanno rivendicato l'attacco e militari dell'esercito egiziano. Le vittime sarebbero una settantina. C'è stato un attacco coordinato ad almeno 5 checkpoint dell'esercito egiziano e gli uomini dell'ISIS avrebbero preso possesso di a quanto pare almeno 2 blindati. È stata tagliata l'energia elettrica e le ambulanze hanno difficoltà ad arrivare in zona. Come si diceva, anche su questo torneremo più avanti. Intanto ritorniamo all'Italia per parlare dei dati dell'Istat diffusi questa mattina. Le famiglie tornano a mettere da parte sull'onda di dati un po' più confortanti. Buone notizie dall'Istat che oggi rende noto lo studio sul rapporto deficit-PIL nel primo trimestre dell'anno, che è risultato al 5,6%, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando era al 6%. E qui il record, si tratta del valore più basso dal primo trimestre del 2007. Ma è ferma anche la pressione fiscale al 38,7%. Mentre scende la spesa per interessi passivi sul debito pubblico del 14% su base annua. Si parla di effetto BCE e di effetto spread. Buone notizie anche per il reddito reale delle famiglie. Il loro potere d'acquisto è aumentato dello 0,6% sul trimestre precedente e dello 0,8% su base annua. È un dato positivo su tutti. Le famiglie italiane iniziano di nuovo a risparmiare. Nel primo trimestre 2015 la propensione al risparmio è stata pari al 9,2%, in aumento di 0,4 punti rispetto al trimestre precedente, di 0,6 punti su base annua. Si spende meno, quindi, nei primi tre mesi del 2015 rispetto all'anno prima i consumi, anche se dello 0,1%, di poco frenano. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica ci porta in Sicilia, dove la giunta di Rosario Crocetta è sempre più in difficoltà. Si è presa 48 ore di tempo per riflettere e completare le ultime cose, ma ormai la decisione è presa. Entro domani Lucia Borsellino, figlia di Paolo, il magistrato ucciso dalla mafia, potrebbe lasciare l'assessorato alla sanità della regione siciliana, abbandonando il governo presieduto da Rosario Crocetta. A far precipitare la situazione è l'arresto del chirurgo plastico Matteo Tutino, medico personale di Crocetta, che avrebbe beneficiato dei servizi del medico, e l'inchiesta sul malaffare nel reparto di chirurgia plastica dell'ospedale all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Con l'addio della Borsellino sono 35 gli assessori della giunta Crocetta che hanno lasciato l'incarico prima del tempo. Nei giorni scorsi hanno presentato le dimissioni prima l'assessore alla funzione pubblica Ettore Leotta, poi l'assessore alle risorse agricole Nino Caleca e secondo indiscrezioni nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'addio anche di Linda Vancheri, assessore alle attività produttive. A conferma di quanto ha scritto ieri su Facebook il deputato regionale del PD Antonello Cracolici, sembra ineluttabile che alla regione siciliana stiano per spegnersi le luci. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Cambiamo decisamente argomento, sarà il ritorno in televisione di Adriano Celentano, la punta di diamante della prossima stagione di Mediaset presentata ieri sera a Cologno Monzese. Canale 5 ospiterà il progetto Adrian, un cartone animato a puntate con ampi stralci della carriera e momenti di racconto. Sentiamo Pier Silvio Berlusconi al microfono di Marta Cagnola. Ma guarda, Adriano Celentano per me ha sempre rappresentato un mito e un pezzo importante della storia della musica e del costume italiano. Mi ricordo da piccolo di aver visto al cinema alcuni suoi film, quindi come dire, ne ho un bellissimo ricordo. E oggi rappresenta anche una persona che mi ha stupito, perché avendo avuto l'occasione di conoscerlo bene, di parlare di progetti insieme, di passare qualche ora insieme, ho trovato una persona disponibile, una persona di grande qualità, una persona che sa ascoltare, e quindi tutto questo da un mito è, come dire, una cosa che fa veramente piacere. Quindi sono onorato che Mediaset possa portare un'altra produzione, un altro progetto con Adriano Celentano. Vi abbiamo raccontato ieri della vicenda di Fincantieri, del sequestro di una parte dello stabilimento di Monfalcone che sta di fatto bloccando quello stesso cantiere nel quale lavorano 4.500 persone e che sta preparando 3 navi da crociera, sequestro arrivato dopo una decisione della Corte di Cassazione. Ebbene, di questo torneremo a parlare tra un attimo dopo il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La Grecia accetta con modifiche le condizioni dei creditori. Stiamo valutando la lettera di Atene, dicono da Bruxelles, ma la Germania frena, bisogna aspettare il referendum. Ancora bene per il momento i mercati. Milano guadagna il 2,7%. È stato arrestato il presunto autore dello stupro di una ragazza di 16 anni a Roma, si tratta di un militare della Marina. 2 operazioni antiterrorismo, arrestate 10 persone, di cui alcune pronte a partire per la Siria, e manette anche 2 magrebini che preparavano attentati in Italia. Le famiglie italiane tornano a risparmiare, dice l'Istat. E torniamo, come già si diceva, sulla vicenda dello stabilimento di Monfalcone della Fincantieri, è uno dei più importanti siti produttivi italiani dell'azienda, che sostanzialmente da ieri è fermo, e vi abbiamo anche raccontato che cosa è successo. Il Tribunale di Gorizia ha ordinato il sequestro di alcune aree destinate alla selezione e allo stoccaggio dei residui di lavorazione del cantiere. Una vicenda che va avanti da tempo, l'azienda aveva avuto ragione in 2 gradi di giudizio e poi la Cassazione le ha sostanzialmente, ve la faccio semplice, dato torto. Fatto sta che la fabbrica che sta preparando, il cantiere che sta preparando 3 grandi navi da crociera, al momento è fermo. Alberto Monticco, segretario della FIM CISL del Friuli Venezia Giulia, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Che aria tira innanzitutto? Insomma, qui c'è un'area di molta preoccupazione, anche perché, fermo restando il rispetto e la sicurezza che la giustizia farà il suo corso, c'è molta perplessità sui tempi e soprattutto sull'entità del provvedimento. E qui c'è la sensazione che questo provvedimento della magistratura poteva essere sicuramente attivato prima in maniera preventiva per capire quali erano le eventuali prescrizioni da poter ottemperare per evitare il sequestro di queste aree. E soprattutto c'è la perplessità su un'attività ispettiva che in questa regione viene fatta sulla Fincantieri, che da questo punto di vista apre delle perplessità su come vengano utilizzate risorse umane da parte del denaro pubblico. Ci spiega che cosa intende esattamente? È una grossa attività ispettiva che coinvolge più che un settore, un'azienda che non sempre, anzi quasi mai, ha portato a dei rilievi particolari e che poi da questo punto di vista ha una sentenza che è già 2 anni, perché mi sembra che la sentenza era del 2013, io domando come mai dal 2013 al 2015 non si è riusciti, questo sicuramente anche per responsabilità aziendali, credo, ma vorrei capire se ci poteva essere compatibilmente la possibilità di evitare di arrivare al blocco del cantiere. Voi lo ricordavate, lì ci sono 3 navi in costruzione, ci sono degli impegni con gli armatori. In questo momento ci sono 4.500 persone, ma che nei momenti di picco ne arrivano anche a 6.000 persone, e si rischia di mettere in ginocchio una regione, un settore, e la domanda è perché e se soprattutto si poteva evitare e prevenire. Mi spiega una cosa, Montico, come se le spiega? Hai una spiegazione su queste perplessità che lei stesso ha espresso sull'operato della magistratura? No, io non ho più che sull'operato, sull'utilizzo di alcune forme di risorse preventive, cioè noi abbiamo fatto anche un comitato ispettivo del tempo fa e sono venute fuori che negli ultimi 18 mesi in quell'azienda sono state fatte circa 200 ispezioni a vario titolo, che però non hanno portato a provvedimenti disastrosi, quindi è chiaro che da questo punto di vista non siamo, c'è qualcuno che sui giornali ha paragonato Fincantieri all'Ilva, diciamo che le emissioni e quant'altro sono totalmente diverse visto il tipo di prodotto, però lì il problema reale è perché in realtà mi scusi Montico, qua sono residui di lavorazione del cantiere, cioè non sono cose grandemente tossiche. Allora sì. Da questo punto di vista la domanda che qui sta serpeggiando anche fra i 5.000 dipendenti, ma non si poteva arrivare a qualche prescrizione, a qualche impegno, a qualche anche diktat severo per risolvere con provvedimenti alternativi alla chiusura del cantiere? Un'ultima domanda, Montico. So che oggi ci sarà un incontro al Ministero per discutere di questa situazione. Lei ci sarà o ci sarà qualcun altro dei vostri? Credo ci sarà la nostra delegazione nazionale di coordinamento, quindi credo che ci sia il segretario nazionale Michele Zanocco, che è assolutamente informato in linea con noi su queste, su queste decisioni, sul momento di questo cantiere, perché lo ricordavate voi, questo è il cantiere più grande in Italia, c'ha 3 commesse, c'è un armatore nuovo, quindi da questo punto di vista è un danno che non si ripercuote soltanto su Monfalcone, ma sulle dinamiche dell'intero gruppo. La ringrazio, grazie Alberto Monticco, segretario della FIM CISL del Friuli Venezia Giulia, anche per averci fornito dei dati interessanti, soprattutto quelli, mi sembra, sulle ispezioni. E veniamo all'Egitto. Come vi raccontavamo nella prima parte della trasmissione, c'è stato un attacco coordinato, rivendicato dall'ISIS sul Sinai. All'esercito egiziano sono stati attaccati almeno 5 checkpoint, tra l'altro non è nemmeno chiaro se l'attacco sia ancora in corso oppure no. Sarebbero una settantina i militari egiziani uccisi. Tutto questo a pochi giorni, in realtà a poche ore addirittura, dall'assassinio di un magistrato al Cairo, e un terrorismo che sembra far sentire la sua presa sempre più forte sul regime di Al-Sisi. Ci colleghiamo con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per un'analisi sulla situazione in Egitto. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Che lettura ne dai? Qui siamo presenti di fronte a una situazione terroristica a più livelli. Da una parte abbiamo la situazione in Sinai. La situazione in Sinai è ormai datata, perché è già da diverso tempo che sono in azione in quell'area i gruppi jihadisti. È un'area molto sensibile, lo dicevamo prima anche fuori onda, per 2 motivi. Da una parte c'è il confine con Gaza e dall'altra ci sono gli insediamenti turistici del Mar Rosso, insediamenti turistici chiave, insomma, per l'economia egiziana. Perché è datata questa situazione? Perché risale praticamente al periodo in cui erano al potere i Fratelli Musulmani del presidente Mohamed Morsi. Mohamed Morsi lasciò un po' campo libero ai jihadisti e, insomma, li spinse verso quell'area, lasciandogli praticamente mano libera in una situazione molto complicata, non solo dal punto di vista politico ma anche, come dire, etnico e antropologico, perché i jihadisti sono riusciti in qualche modo ad affiancarsi alle tribù beduine che sono entrate in conflitto con il potere centrale. Le tribù beduine sono fondamentali per il controllo di un territorio desertico che è così ostile e così vasto. Quindi quando il generale Al-Sisi ha fatto il suo colpo di Stato ed è salito al potere, si è trovato di fronte a questo problema, ha sigillato il confine con Gaza, ma si è trovato a combattere questa battaglia contro i jihadisti del Sinai affiliati all'ISIS, il gruppo in particolare quello di Ansar Bayt al-Maqdisi, leoni del califfato. Gli attentati del Cairo potrebbero avere una matrice differente e qui siamo nel fatto, nell'ambito della repressione che è stata condotta soprattutto nei confronti dei fratelli musulmani quando sono stati messi fuori legge. Addirittura uno dei loro leader ha rivendicato in qualche modo moralmente l'assassinio del procuratore generale che tu ricordavi prima, Sham Barakat, e oggi al Cairo c'è stata l'esplosione di due bombe vicino a una stazione di polizia con altri tre morti. Insomma, da una parte il terrorismo dei jihadisti organizzato al califfato, dall'altra parte un terrorismo, come dire, endemico, endogeno, generato da gruppi diversi e forse affiliati agli stessi fratelli musulmani. La domanda che ci si può fare è questo: resisterà l'Egitto a una situazione di questo genere? Una situazione che in qualche modo ricorda quella dell'Algeria degli anni 90, quando la repressione e la messa fuori legge del fronte islamico di salvezza provocò poi un conflitto che durò 10 anni con 200.000 morti. In un minuto, Alberto, ti chiedo una risposta a questa domanda. Il turismo, per così dire, delle piramidi, proprio per la situazione che si vive al Cairo, è in una situazione sempre più difficile, e ricordiamo che il turismo è un elemento fondante dell'economia egiziana. Dall'altra parte, l'attentato dell'altro giorno in Tunisia ha messo qualche timore su quello che può succedere anche nelle zone balneari dell'Egitto, molto frequentate tra l'altro dagli italiani. Ci sono rischi anche da questo punto di vista, anche economici, per l'Egitto? Ma certamente, lo dicevo anche prima, cioè il fatto di in qualche modo colpire certe aree che sono vicine o contigue al turismo di massa, al turismo dei gruppi organizzati, delle stazioni turistiche più note, in qualche modo certamente influisce assai su una delle entrate in particolare dell'Egitto. Qual è lo scopo poi alla fine del califfato, lo scopo dei gruppi jihadisti? Di colpire l'economia turistica, di colpire in questo modo in generale l'economia di un paese e anche poi di isolarlo dai contatti internazionali. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per questa analisi sempre puntuale. Noi ci fermiamo un attimo, ci ritroviamo per fare un breve punto sui mercati e poi torneremo tra l'altro sui temi del terrorismo per parlare del varo di questa operazione di Europol di contropropaganda all'ISIS, per così dire, e poi ci prenderemo un attimo un po' più leggero, parleremo col sindaco di Rimini perché sta suscitando qualche polemica, una campagna cartellonistica che va in giro per Rimini, firmata da Cattelan, da un grande artista, sempre piuttosto provocatorio. Insomma, c'è qualche polemica su questo, ne parliamo col sindaco. Tutto questo tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La Grecia accetta con modifiche le condizioni dei creditori, ci stiamo lavorando, dicono da Bruxelles, la Germania frena. Arrestato il presunto autore dello stupro di una ragazza di 16 anni a Roma, si tratta di un militare della Marina. Due operazioni antiterrorismo, arrestate 10 persone, di cui alcune pronte a partire per la Siria. Le famiglie italiane tornano a risparmiare, dice l'Istat. Attacco coordinato all'esercito egiziano sul Sinai, il numero delle vittime è incerto, si parla di 70. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E torniamo a parlare di terrorismo adesso, dopo una giornata che, come vi abbiamo raccontato, ha visto degli arresti in Italia, un attacco rivendicato dall'ISIS sul Sinai e poi, come già si accennava nella prima parte della trasmissione, questa nuova iniziativa lanciata da Europol per dare la caccia agli estremisti impegnati nel reclutamento online di combattenti e mogli della Jihad da inviare in Siria ed in Iraq. Gli obiettivi sono rimozione dei contenuti dell'ISIS online e poi lo smantellamento della strategia di reclutamenti sul web e anche, da quel che si capisce, anche un po' di contropropaganda. Saluto Monica Maggioni, che è direttore di Rai News 24 e della quale è appena uscito un libro che si intitola Terrore mediatico. Monica, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Era ora forse che anche su questo fronte l'Europa si desse una mossa. I francesi lo hanno fatto molto bene subito dopo gli attentati di Parigi, con un sito proprio per contrastare il reclutamento, molto forte anche per come è stato fatto. Però era ora forse che l'Europa si muovesse, no? Beh, era ora sì, anche perché quello è un piano fondamentale. Pensa che il numero due di Al-Qaeda, al-Zawahiri, un giorno in una lettera a Zarqawi scrisse: la comunicazione è metà della battaglia. Loro l'hanno capito nel 2004 e molti altri l'hanno capito nel corso della storia. Capire che la comunicazione è un pezzo fondamentale della sfida del terrorismo che abbiamo di fronte, secondo me, è un passaggio chiave. Tra l'altro, Monica, siamo di fronte, non è la prima volta che lo raccontiamo, ma vale la pena ritornarci, siamo di fronte a una minaccia terroristica, quella dell'ISIS, che utilizza i media, sia i nuovi che i vecchi, in maniera eccellente, in maniera straordinaria. Ma sì, li usa in modo straordinario, anche perché i foreign fighter, cioè i combattenti stranieri che in questi anni sono andati ad accrescere le fila dell'ISIS, spesso sono giovani ragazzi che hanno fatto esattamente i nostri percorsi, i nostri studi, le nostre scuole, e hanno ben chiaro la costruzione del racconto. Sono esperti di montaggio, girano, pensa ai video che abbiamo visto in questi mesi di inizio anno, ai video di Kentley, dello stagio britannico che viene ripreso come una superstar, a quello del pilota Giordano che quando è lì interrogato sembra un film perché ha delle luci perfette. Tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire che loro sanno esattamente come si costruisce una storia, come si costruisce un film, perché diventi un film che ha alcuni obiettivi precisi: spaventare, anche affascinare e attrarre soprattutto i giovani, i ragazzi, un certo pezzo di mondo che poi comunque vive nel web, vive di questi film e ritrova la loro epica. A questo punto, avendo capito noi queste cose, dobbiamo proprio lavorare su queste per evitare Ti sembra, Monica, che le stiamo ancora sottovalutando? Ma a me sembra sempre di meno, per fortuna. Cioè, mi sembra che a differenza di quello che accadeva all'inizio dell'anno o anche quando sono usciti i primi video dell'ISIS, insomma il califfato gli abbiamo fatto noi festeggiare un anno l'altro ieri, in realtà all'inizio è stata molto sottovalutata, c'era molto la tendenza a prendere questi video belli impacchettati come ci davano loro e dire che meraviglia, guarda, mettiamoli in onda. Sempre di più nei media di tutto il mondo si è capito che questo argomento è centrale. E il dibattito che si è aperto, anche il confronto, anche il ragionamento è stato chiave per capire che siccome loro hanno un obiettivo, anche noi dobbiamo decidere qual è il nostro. Grazie a Monica Maggioni, direttore di Rai News 24, autrice del libro Terrorismo mediatico. E chiudiamo prendendo un argomento un po' più leggero. Saluto Andrea Agnassi, sindaco di Rimini. Buongiorno, sindaco. Buongiorno. Ha suscitato qualche polemica la cartellonistica che apparirà in città, a partire da oggi proprio, se non sbaglio, ideata da Maurizio Cattelan. Perché? Perché Cattelan è un provocatore, lo sappiamo, i cittadini milanesi conoscono benissimo quel dito medio piantato nel mezzo di Piazza Affari. E che cosa ha fatto? Dei cartelloni con una sorta di Santa Teresa in estasi da patatine, c'è un'erezione maschile su un costume da bagno e cose di questo genere, e tutto con uno stile un po' retro e le scritte saluti da Rimini. Allora, come vi è venuta l'idea, Agnassi, e sta creando qualche problema in città oppure no? Ma intanto buongiorno, l'idea non è che è venuta, è stato un cammino, un percorso di una città che sta cambiando potentemente. Rimini, come dire, forse è offuscata da questa ombra che viene dagli ombrelloni, dal suo mare, dal suo sole, ma una città romana, rinascimentale, una città dove è nato il primo stabilimento balneare, è la città che Tondelli 30 anni fa raccontava come una Nashville, o Ligabue dice Rimini come il blues, quindi un cammino di una città che sta cambiando profondamente. Noi abbiamo detto no al cemento, abbiamo fatto varianti retroattive per limitare la rendita immobiliare, sostituiamo ai motori immobiliari i motori culturali. Lei pensi che alcune delle opere di Cattelan sono tra il rinascente teatro verdiano, inaugurato da una prima verdiana, da Verdi con la Roldo, e il castello malatestiano. Probabilmente, tra il castello malatestiano, le terre di Piero della Francesca e il teatro dell'Ottocento inaugurato da Verdi, oggi c'è un parcheggio. Bene, noi spazzeremo via il parcheggio e costruiremo un'arena delle arti. A Cattelan probabilmente è arrivato questo messaggio di una città che si reinventa, perché noi siamo un piccolo borgo di 200.000 anime, ma che fa 17 milioni di presenze turistiche. Probabilmente è arrivato questo messaggio, però, questo tentativo. Però dico, sindaco, insomma, qualche problemuccio in città ve lo creerà, perché ripeto, la provocazione è forte, esattamente come fu per il dito piazzato in mezzo a Piazza Affari. Insomma, la città ne discusse tantissimo. Sì, no, le dico questo, quindi non abbiamo scelto Cattelan, ma abbiamo avuto il coraggio di proporre un nostro cammino e lui ha avuto il coraggio di scegliere Rimini. I cliché, ma intanto si parla, ad esempio, vedo, di opere che non si sono viste, perché per noi Santa Teresa è il fatto che stiamo lavorando questo paese, no? Expo il cibo, bene bio, bene vegan, bene i grandi chef, ma chi è che non si è buttato in un piatto di patatine? E quindi Rimini è anche una città no snob, è una patatina no snob. Si è parlato di un'erezione, ma se lei vede questa magnifica cartolina, perché noi abbiamo rilanciato, lui ci ha proposto delle cartoline e noi gli abbiamo proposto di mettere le cartoline nei luoghi cartolina della città con delle gigantografie. Se lei vede questa, che brevemente, mi chiuda. Qualche suo collega ha visto come un'erezione, in realtà c'è un grande masso appeso ad un costume maschile. È appeso, mi scusi sindaco, perché non è che al costume, ma non al costume, un'erezione si tiene da solo. Ecco, va bene, esempio, io ci vedo anche un'ironia sul machismo romagnolo o sul peso morto della storia, perché quella gigantografia è su un teatro che è ferito da 70 anni. La ringrazio, grazie Andrea Agnassi, sindaco di Rimini. Poi li vedremo da oggi questi manifesti. Noi, prima di chiudere, dato che siamo ad Expo, parliamo di uno che è stato ospite ieri ad Expo, Vinicio Capossela, che molto si è occupato di Grecia in questi anni, tanto che l'ha raccontata in un disco rebetico, Gymnastas. E come vive questi giorni glielo ha chiesto Marta Cagnola. Lo stesso di sempre, quello che mi ha obbligato a cercare di scrivere qualcosa, a capire un po' più da vicino, questo libro Tefteri, oppure il film, il documentario che abbiamo fatto con Andrea Segre, In debito, è sempre molto mortificante ridurre tutto un paese così straordinario, a una questione. Ultimamente ha proprio assunto dei toni anche volgari, proprio sempre la discussione con quella a cui dar l'affitto, cioè sembra una discussione a livello proprio di condominio, di riunione di condominio, ed è triste per la Grecia ed è ancora più triste per l'Europa porre, diciamo, a questo livello. Non riesco a credere che si possa, che non ci siano soluzioni più, meno proprio volgari, direi. Traffico.